vita. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, prima canzone per noi, pezzo scelto appunto dal nostro amico Matteo, che festeggiamo, anzi festeggia i suoi 19 anni, sono i migliori anni della nostra vita, caro Ciccio, quindi contentissimo di festeggiarlo qui tutti insieme, e gli passo il microfono. Allora Ciccio, come hai passato questa prima giornata di festeggiamenti, perché dovete sapere che Ciccio ha iniziato oggi è venerdì, finirà i festeggiamenti dopo Pasqua, quindi lui è altro che Ramadan. Quindi come hai festeggiato oggi? Io buonasera a tutti, sono Matteo. Io mi sento tantissimo. Io andrò prima. Prima a scuola, io vado a portare le cose ai miei compagni. Esatto. Hai festeggiato. La prima cosa c'è da dire che è talmente preciso che, nonostante tutto, e fosse soprattutto il suo compagno, stamattina prima di andare a scuola è andato a fare alternanza scuola-lavoro al bar e poi è andato a scuola e ha festeggiato. E poi io qua al lavoro a tupello io andato a con... E oggi ti hanno dato pure le mance, mi hai detto. Tanto da mance, io ho andato alle prendere le banane, vero? Come hai festeggiato questo compagno? Che hai portato? Allora, dovete sapere che Matteo festeggia, cioè ha portato l'ira di Dio. Quindi racconta a chi ci ascolta cosa hai portato a scuola. Racconto, io ho portato la pasta foglia con la Nutella, con yogurt, prosciutto, la torta, zucchero e Coca-Cola. E poi io stasera allora, poi questo è il primo round mattiniero, il secondo round pomeridiano, che ha portato anche qui al Brancaleone, festeggiamo, finita la diretta, ha portato delle cose, poi la settimana prossima racconteremo cosa ha portato, però poi stasera? Stasera faccio con papà e mamma, peggetto con mio compleanno con papà e mamma. Quindi hai mai detto ti prendi la pizza stasera? Sì! E senti, questa è la prima parte, oggi è andata così, quindi pochi festeggiamenti, molto discreti soprattutto. E domani? E domani io vado a maneggio con i miei amici Davide, Marco e Matteo, tutta la classe, vero? Sì, io infatti prima gli ho fatto la domanda, gli ho detto, senti, ma l'amica nostra, non facciamo nomi per non mettere in imbarazzo le persone, verrà anche lei a festeggiare? Mi ha detto non l'ho sentita, però è un bugiardo, quindi. Io sì, ma io con la mia amica Carlotta. Io non ho detto, vedi, però subito come ha capito. Qui in radio intanto salutiamo Marco e Davide, che sono venuti a fare un agguato a sorpresa al nostro amico Matteo. Allora andiamo con un altro pezzo e poi proseguiamo a raccontare, perché appunto abbiamo raccontato oggi e domani a pranzo, poi c'è sta domani sera, poi c'è sta tutta domenica. Intanto passiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta. Parli tu, se dico vita dimmi cosa intendi, e come vivi tu, se dico forza attacchi o ti difendi, t'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia, m'hai scritto sempre male, scritto sulla sabbia, t'ho detto eccomi e volevi cambiarmi,

Quindi torniamo a noi, Ciccio. Abbiamo detto oggi, stasera si festeggia, a parte qua dopo alle 6 con tutta la crew. Siamo in attesa che arrivi anche il nostro amico Lucone. Ci sta il nostro amico Luchino che sta qui in presenza con noi. Ciccio, stasera pizza e domani? Domani io faccio domani vado farò fa una patigiara. Io vado a fare una patigiara a Pacco Salvini. Io ho parlato con un amico Loreto del maneggio. Mi ha detto falso tu. Allora, infatti salutiamo anche Lorenzo, il proprietario del maneggio del Parco delle Sabine, dove domani festeggerà con tutta la classe un ricco aperitivo, da quello che so. Quindi, ecco, Dai, io domenica quindi sabato, domani va via tutto così, fra Luschi e Lambruschi, si festeggia in quel del Parco delle Sabine. Anzi, se qualcuno passa, mi raccomando, fate gli auguri al nostro amico Matteo. Ciccio, invece domenica? Io domenica vado a una partigiana con papà e mamma a prendere, no, a Massimo, prendere un caffè, Piero. Bravo, bravo. Poi sicuramente senti, invece a Nettuno dai zii e dai nonni quando ci vai? Non vado. Ok, va bene, per questa volta, vabbè, vengono loro a festeggiarti. Senti, mandiamo un'altra canzone o vuoi dare subito il meteo? Dimmi tu. Ragazzone. Allora, andiamo con un'altra canzone e poi torniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. C'è chi mi chiama, figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, se basta un titolo a far odiare un intero popolo, non lo conosci nome, no, sta arrivando l'ondata, stiamo fermi, non si parla e non si salta, senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando l'ondata, non ci resta che pregare finché passa, sembri timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra, ehi, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraerea sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un frigo, per sentirti vivo, hai solo un tentativo, ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando hai meno vivi più sereno, abbiamo tutto ma ci manca sentimento e non riusciamo più a volerci bene, neanche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me. Basta un titolo a far odiare un intero popolo, non lo conosci, no, sta arrivando l'ondata, siamo fermi, non si parla e non si salta, senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando l'ondata, non ci resta che pregare finché passa, sempre timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra. cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee, abbiamo cambiato l'idea, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere. Hey, bambino, bel casino, sul palloncino, per riempire un frigo. Navigando, navigando verso Malta, senza aver nuotato mai nell'acqua alta. Navigando, navigando verso Malta, senza aver nuotato mai nell'acqua alta. Parlava di compleanni, festeggiamo il nostro amico Matteo e niente, visto che appunto inizia anche il weekend, Ciccio, andiamo incontro a quelle che sono le due previsioni del tempo. Questa settimana partite non ce ne sono perché la nazionale è impegnata, quindi niente calcio scommesse come chiamiamo noi, anche che finora non ha vinto nessuno, visto che in quasi 100 puntate nessuno è venuto a portarci manco un cioccolatino, quindi piano piano gliela faremo. Allora, andiamo col tempo? Vai. Tempo fine della settimana, sabato 23 maggio c'è il nuvolo. Ciao. E il nuvolo domenica 22 maggio c'è, non fate no piove, però. Ok, quindi diciamo che iniziamo la primavera con un bel weekend tranquillo e... Che c'è? Dimmi un po'. Io parlo, io la parlo retta, fatto con... Ah, sì, ma questo diciamo la settimana prossima, che fanno parte del secondo round dei festeggiamenti che saranno la settimana prossima. Spoileriamo qualcosa, dove te ne vai? A Dublino. Perfetto, Ciccio, a Dublino. E passiamo il mic al nostro amico Luchino? Sì. Così, anzi no, ho detto una bugia, so, purtroppo ragazzi l'età avanza, oggi è venerdì anche per me. E passo il mic alla nostra amica Alice con le sue consuete rubriche sulla bellezza, consigli sulla bellezza, sia maschile che femminile, perché ormai mi sta usando come cavia, e poi sulla mobilità. Allora, iniziamo, vai! Allora... E poi oggi parlerò di una crema idratante che illumina la pelle, che non fa seccare le mani, e non fa seccare le mani perché soprattutto questa crema non le fa seccare perché diciamo è di un negozio molto importante. Infatti, allora, diciamo, visto che ci stiamo, tanto abbiamo detto a tutti che anche quando facciamo i consigli per gli acquisti noi non ci pigliamo manco un centesimo, quindi però almeno il nome diciamolo, così appunto la gente sa anche che crema è. Se qualcuno ascolta e magari passa e dice ho visto qua la crema che ha detto Alice da paura, quindi come si chiama la crema? È un crema idratante Iversè. Ah, perfetto. Dove si trova? E dove si può comprare? Se, diciamo che quello è per le donne. Anche, c'è anche per gli uomini. Dove la posso andare a comprare? Visto che appunto sai che io inizio a seguire i tuoi consigli. Ormai l'età si avanza e quindi devo prevenire le curette, lo screpolamento della pelle. Dove la compro? Dalla regia mi dicono a Porte di Roma, maledetto rompipallette. Quindi andiamo con un pezzo e poi ritorniamo qui in diretta con sempre consigli per gli acquisti. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu, molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui? qui da queste parti. Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Questo è il pezzo di Gali che a mio modesto parere è uno dei vincitori di Sanremo 2024. Detto questo, ritorniamo un po' a quelle che sono le nostre rubriche, quindi parliamo anche di mobilità, giusto lì? Sì. Perfetto, allora cosa raccontiamo ai nostri ascoltatori riguardo a qualche notizia soprattutto interessanti dall'ATAC? Lunedì 25 marzo la manifestazione in Piazza della Repubblica, il programma della rete bus dalle ore 14 alle ore 18 si svolge una manifestazione in Piazza della Repubblica, possibili deviazioni in motivazioni linee bus H38 40 60 64 66 70 82 85 170 223 590 910. Perfetto, questo perché appunto ci iniziano anche un po' di cose qua a Roma, inizia la settimana prossima, ci sarà appunto i vari riti della Settimana Santa, che quindi c'è, cioè, bus deviati appunto, poi piano piano iniziano quelli che, cioè proseguono quelli che sono i lavori per il giubileo, perché appunto hanno nuovo giubileo. E quindi diciamo grazie ad Alice che con i suoi consigli aiuta tutti gli ascoltatori a muoversi sciolti e disinvolti nella giungla dell'Atak. Andiamo con un altro pezzo e poi torniamo sempre qui. Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso. Io non credo, trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai. Però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Lasciami stare nel tuo temporale se grandini. Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici. Chiamo l'avvocato e gli dico tutto. Che sono distrutta da quando sei andato, perché non ho capito un cazzo di te. Scusami, non parliamone più, c'hai ragione tu. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai. Però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per noi. O solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Quanto il weekend, senza fare niente, senza niente di che, toglimi il respiro. Apnea. Ricordati com'ero, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. E ritorniamo in diretta. Grazie ancora ad Alice per i suoi consigli di bellezza sulla mobilità. E non so, volevi aggiungere qualcosa, Ali, oppure passiamo il mic a Luca? Passiamo un attimo il mic a Luca. Perfetto, allora, Luca, Cori, che non è educazione a far aspettare i telespettatori, stanno comodi a casa, però insomma mica tutto sto tempo. Allora ti passo il mic e raccontiamo un po', vai tu. Buonasera a tutti, io sono Luca e vi parlerò di cosa penso i compleanni in generale. Allora, i compleanni per me sono una gioia, felicità, ti vai a divertire, stai con degli amici. Tipo oggi è il compleanno di Matt e sono molto contento di festeggiarlo con tutti e anche con lui. Quindi tanti ancora auguri, caro Matt. E ovviamente i compleanni non sono soltanto una gioia, puoi farlo di tutto al compleanno, sfegatarti, ballare. Ora che c'hai 17 anni, l'anno prossimo ne compi 18, ricorditi che anche tu puoi essere, puoi subire delle condanne, diciamo, se ti comporti male, quindi fai attenzione, quindi lo sai, insomma. Eh sì, perché io il prossimo anno sarò maggiorenne, occhio alle cose che combino, perché io non voglio fare, insomma, quello che ha fatto mio fratello lasciamo perdere. Vabbè, mo sembra che chissà che ha fatto, per una bravata di una sera è andata così, però dai,

Quindi passo il mic al mio amico Luchino, che così va con le sue consuete rubriche. Allora, io questa sera andrò, cioè vedrò mio zio, che è da un po' che non lo vedo, che è stato che? Danilo, che lo chiamo, insomma, il pelato. E io andrò a cena con lui, perché è stato ad Amsterdam, e andremo a cena fuori. Ma sono ricresciuti i capelli ad Amsterdam. Domani sera invece andrò da mio cugino Marco, che andremo al, insomma, bar Tavola Calda da suo padre, che si è aperto. Sono molto contento per lui. Se ci annoiamo andiamo a casetta, basta non famo caciara. E invece per domenica forse andrò dalla sorella di mio padre a pranzo, e mia zia, e starò con lei. E ovviamente l'ultima volta mi sono comportato benissimo, e ogni tanto quando sto con mia cugina si comporta da viziata, perché vuole avere quell'altro. Mia cugina è un po' viziata. Io saluto tutti e li vedrò dopo. Devi andare con le tue rubriche. Saluti tutti qui. Saluto mia zia, mio zio e tutti. Ok. E mandiamo un pezzo e poi andiamo con le battute e le offerte. Sì, egregio, posso premere play? Ma prego. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips, and come on your tits, and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel in basking the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, for you to see so damn much of my ass, you ask for me, well I'm back, na na na na na na na na na. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm in arresting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. You can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Hobie, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy at a fag loma. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults I've been doing. Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. ritorniamo in diretta, ultimi minuti di questa puntata di Jolly Roger, puntata dedicata tutta al compleanno del nostro amico Matteo. E ora appunto passo il mic al nostro amico Luchino, che con le sue consuete rubriche ci accompagna verso i saluti finali. Offerte Pewex, Oreo 1,99 euro, Skittles Original a 99 centesimi, 7-Up a 1,05 euro. Pewex, Pewex, qualità conveniente sempre. E qua manco ci danno una lira, come al solito. E mo passiamo alle battute. Cosa ci fa un pugliese con un libro in mano? Lo Lecce. Sai dove vanno i polli quando si fanno male? Al policlinico. Cosa dice un cane inglese quando ha caldo? Sono un hot dog. E adesso è arrivato il nostro amico Lucone. Vieni Lucone, vieni a fare un gran saluto. Dobbo aiuto. Alla grande. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. ritorniamo in diretta, i Queen, patrimonio dell'UNESCO. Appunto parlavamo di quale canzoni dei Queen più piacciono altre. Io, insomma, Bohemian Rhapsody è un must, è veramente un pezzo di storia della musica. Detto questo, siamo arrivati a fine di questa puntata. Abbiamo raccontato un po' la maniera nostra i vari compleanni e ora si sono fatte le 18 e iniziano le danze dei festeggiamenti di Matteo, che proseguiranno fino a dopo Pasqua, quindi state connessi che piano piano spoileremo le cose. Allora, io ringrazio tutti e tutte, auguro a tutti un buon weekend, il primo weekend di primavera, quindi che la primavera sia con noi e a settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Una cosa, auguri Matteo! Ciao a tutti, auguri Matte! Allora, buon weekend a tutti e tutte e ci si risente settimana prossima. Johnny Roger. You happy when you're blue.